A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato. Ce vado io, ma non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Senza controllo sanitario. Il mio fidanzato sinceramente mi dice di ascoltare la zanzara, ma io non vi voglio proprio per niente sentire, perché parlate solo di figa, di come si deve fare la pipì nel lavandino e di come si deve cagare. Sinceramente siete proprio due ignoranti, ve lo devo dire, basta. Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Ogni tanto una buona notizia, caro Parenzo, ogni tanto dal Parlamento viene una buona notizia. Aiuto. Hanno tolto il vitalizio a Toni Negri. Beh, signori miei, se ti esalta, non mi esalta, ma ogni tanto una buona notizia. Di quanto non mi esalta. Era di 500 euro? No, di quanto era? Un paio di 2000 euro, credo, sì. 1500, 1400. Beh, allora qual è il problema? Non ho capito. Cioè, la cosa più incredibile è che questo signore, presunto uno rivoluzionario, dei più grandi professori mondiali, di ma non mi interessa. Questo signore, presunto intellettuali viventi, presunto uno dei più grandi intellettuali viventi, beh, uno dei più grandi studiosi di filosofia del diritto, come allora, sai, di questo Spinoza, signore, presunto rivoluzionario, ma può tradotto in America, vabbè, questo, in Giappone, in America traducono pure Moccia in America, non è un Moccia, no, per dire, ma è un grande Moccia, ma non è che traducono tutti, cioè non è quello il punto. Allora, questo signore presunto rivoluzionario ha incassato per tanti anni senza battere ciglio soldi nostri per essere stato per caso eletto in Parlamento, senza avere la dignità di un rivoluzionario, senza avere di dire no, prendetevi questi soldi, stato di merda, maledetto. No, siccome gli interessava, aveva evidentemente bisogno di questi 2000 euro, non so quanti erano, non ha mai fatto un gesto del genere, il presunto professore rivoluzionario. Si è intascato i soldi dello Stato che odia, e che odiava e che odia ancora, zitto, muto, finché è arrivato un provvedimento che per fortuna gli ha tolto i soldi. La realtà è quella che descrivo io, è la realtà. Presunti rivoluzionari, a parole, robe, hanno incassato per anni soldi dallo Stato che odiavano e odiano. Allora uno potrebbe dire la stessa cosa degli leghisti, di quando dicevano Roma ladrona eppure incassavano il vitalizio. Beh, si potrebbe dire, perché no? A fine anno. Certo, si può dire, l'hai detto, l'hai sempre detto. Rappresentavano il popolo padano, ma nessuno gli ha mai contestato quel vitalizio che prendeva da Roma ladrona. Allora, a proposito... Eppure per 20 anni ci hanno raccontato sta fregnaccia, no? Dai. A proposito di vitalizi tolti a persone condannati a pene superiori a 2 anni, un tizio, un tale ex deputato di Alleanza Nazionale, dice: prendevo 2000 euro, una miseria, cioè 2000 euro, una miseria, rispetto ad altre pensioni, certo, comunque non voglio fare lo spocchioso, dovevo costruire un albergo, un appalto da 4 milioni, per cui mi chiesero anche il pizzo, invece è finita con una condanna costruita, non hanno voluto vedere le carte. E adesso come campo? E chi se ne frega, sono cazzi tuoi, non nostri. Sono cazzi tuoi. Ah, ieri abbiamo citato questo fenomeno della sinistra al Comune di Milano, la quale si oppone, senza grande successo per adesso, alla intitolazione di una via al signor Caprotti, Bernardo Caprotti. Questa signora dice che Caprotti ha avuto anche una condanna o comunque ha patteggiato una pena per corruzione. Ah, ragazzi, non voglio ripetermi, non voglio ripetermi. Dice anche che l'apertura della domenica dei supermercati non è un grande successo, perché non era bravo nelle relazioni sindacali, signor Caprotti. una figura che non possiamo negare, qua si fanno dei numeri, che sia stato un imprenditore di successo e mi spingo oltre, sicuramente un innovatore, però là, la sua biografia ci parla di molto altro e ci racconta di una storia individuale e collettiva molto più controversa. Mi riferisco alle relazioni con i sindacali, alle relazioni con i sindacati, piuttosto che ai diritti dei lavoratori. Cioè, questa qua, con questi discorsi così pomposi, complessi, eccetera, vuole impedire la intitolazione di una via a Caprotti. Cioè, questa signora sconosciuta vuole impedire che venga intitolata una via a Caprotti. Non mi pare una battaglia campale. No, ma ripeto, no, assolutamente me ne frego delle vie. Però gente che a Caprotti dovrebbe, sai che significa, doveva, perché è morto, doveva lustrare le scarpe. Cioè pulire, no? Dici, dov'è signora di sinistra o quello che è? Ecco qua le scarpe, mi pulisca le scarpe, per favore. Non erano manco all'altezza dello squatti potti, se ce l'aveva, di Caprotti, cioè, meno all'altezza dello sgabellino sotto il cesso di Caprotti, capito? Signor Caprotti, magari ce l'aveva d'oro lo sgabellino. Ma non credo, perché era uno, sì, era uno molto, non l'ho mai incontrato, molto spartano. Ma quanto ho letto. Allora, Renzi pare che stia spendendo 2.800.000 euro per il sì al referendum, soldi nostri, magari va tutto bene, tra cui 400.000 per un guru, un tale Messina, un guru americano. A me fa impazzire questa cosa che prendono i guru americani, che portano tra l'altro male, malissimo. Questo lo fece anche Berlusconi. Ho detto guri, tra l'altro, i guri americani, cioè ho pluralizzato il guru, ma in realtà si dice sempre guru anche al plurale. Tanto perché sennò qualcuno mi dice: sei un ignorante, hai detto guri. No, guru al plurale, guru. Sì, lo fanno tutti, ma porta male, porta malissimo scegliere dei guru americani, malissimo. Comunque 2.800.000, in questi 2.800.000 pare ci sia anche questi 400.000. Tutto normale? Boh. Secondo Freccero, Berlusconi ha lavorato per il paese e Renzi no. Vabbè. Di fronte al capitalismo estrattivo, al capitalismo delle multinazionali che portano e poi non pagano le tasse, almeno Berlusconi devo dire che ha sempre in qualche modo lavorato per il paese, anzi. Io ho lavorato con lui, sono persino in Francia a esportare la televisione commerciale, mentre mi sembra che il signor Renzi non esporti nulla, anzi importa solamente. Poi dice che ha rubato la moglie a Blair, Blair ha rubato la moglie a Murdoch, e allora lui si ispira a Blair, ma non so, un casino pure Freccero, ma che te frega se Blair ha rubato la moglie a Murdoch e dunque Renzi segue Blair, ma dai, su. Perché io detesto, naturalmente, lo dico con tono sincero perché lo sanno tutti, Renzi, ma non ti posso dire perché ha scoperto Blair nel 2016. Blair, ve lo dico subito, Blair che ha tradito Murdoch e rubandogli la moglie. Beh, anche questo è moralmente abietto, moralmente, vabbè, ed era un suo amico. Moralmente costituzionale è moralmente abietto. Seconda, ma l'amore c'è Blair che ha dichiarato il falso, Carlo, sulla guerra d'Iraq. L'amore è cieco, non puoi sì, no, l'amore tu non, io non rido questa sera. In questa sera c'è in mezzo appunto il volere del popolo italiano. Allora, non capisco perché moralmente abietto che il fatto che Blair si sia trovato la moglie di Murdoch, adesso francamente non lo capisco. Non amico, vabbè, ma dai, su, ma è patente. Ma è una cosa ridicola questa critica qua. Dunque, siccome Blair è abietto, Renzi, cioè, l'antirenzismo qualche volta raggiunge livelli proprio assurdi. Ma che te frega di quello che ha fatto Blair? Dai, su. Sentiamo Freccero contro Rondolino. Hai detto che figlio di profeta, sì, è figlio di profeta, è fatto ma che vuol dire? Ma che sì, vuol dire? Vuol dire che è completamente. Cioè, che è completamente? Avanti. Figlio di un figlio sistema di comunicazione. Poi ha litigato pure con Zanetti, con tutti, ha litigato Freccero. Ragazzi, la cosa che mi... Sto tornando alla questione della Camera dei Deputati e delle vergogne che ogni tanto accadono. Allora, qualche giorno fa, la notizia di un paio di settimane fa, è uscita fuori che cosa? È uscito fuori che nel bilancio della Camera ci sono 63.000 euro, che è una piccola cosa, 63.000 euro sono nulla, ovviamente non sono nulla per qualcuno, è tantissimo, per il commercialista gratis. Cioè all'interno del bilancio della Camera hanno fatto passare una consulenza per un commercialista gratis. Per chi gratis? Per tutti? Per tutti, per tutti. Se tu ti vuoi avvalere di un commercialista, è il commercialista gratis, se tu sei deputato. Sì. Ora può essere una piccola cosa, no? Per carità, chi se ne frega. Però 63.000. È una vergogna, no, ma la cosa più incredibile è un'altra. Che non lo sanno neppure, cioè l'hanno fatta passare questa cosa qua, perché secondo il bilancio i deputati non sanno che non lo sanno, non lo sanno, e dunque si difendono perché non leggono il bilancio della Camera, cazzo, non è una minchia da fare dalla mattina alla sera, e non leggono il bilancio della Camera, ovviamente non leggono le cose che magari sono poco interessanti, perché abbiamo il commercialista, poi nessuno ne fa uso perché molta gente già ce l'ha il commercialista, no? Sì, per dunque forza, questi sì. 63.000 euro sono praticamente buttati, perché nessuno andrà mai da questo consulente. Ma senti che cosa ha risposto a un certo punto Verini, no? Che uno Beltroniano, uno del PD, un tale del PD, senti. Un tale, sì. No, uno del PD, un deputato famoso, del PD. No, famoso per chi? Per te, non lo conosce nessuno. Famoso, uno Verini, chiama, Verini, chi è Verini? È uno che nessuno. Chi segue la politica lo conosce benissimo. Ma sì, lo chi segue la politica? La gente segue Sabina da Bari, va bene. La gente normale non sa chi è Verini, dai. Gente normale, va bene, d'accordo. Non è un... Dai. È una di quelle cose che allontanano i cittadini dalla politica, e quindi prima la togliamo meglio è. Ma scusa, amico mio, l'hai votata tu? L'hai votata tu questa cosa qui? Adesso dici prima la togliamo meglio. Ma l'hai votata tu col bilancio della Camera? Non te ne sei reso conto? Non te ne sei accorto? Se pure in ritardo, meglio. A me queste cose qua mi fanno impazzire. Cioè votano una roba, sì, cioè il commercialista 63.000 euro che, ripeto, rispetto al bilancio della Camera, rispetto anche al bilancio dello Stato, non è niente. Però tu somma che... 60.000 lì, 60.000 sì, là, 60.000 adesso non fare parte. Il populista più di me. Però no, sto ma dicendo, questo è vero, non serve il commercialista. Ma almeno abbi il coraggio di dire sì, è vero, volevamo il commercialista gratis. Magari per chi non se lo può permettere, che alla Camera in realtà non ci sono quelli che non se lo possono permettere. Buonasera e buona coda a chi è in macchina con la Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, io non riesco a capire. Ora, la frase è quella che ha detto, torniamo un attimo sul Grande Fratello, no? Signor Clemente Russo, no? Sì, se io sì. la trovavo sul letto, la ammazzavo in sostanza, no? No, cioè, non in sostanza, lo ha proprio sì, detto. Sì, però ragazzi, non in pensare sostanza. Che questa frase del signor detta Russo sia in diretta televisiva sì, davanti vabbè, a milioni no, notte, di persone. De notte, alle tre di notte. E riproposta che poi in altro davanti comunque, a milioni. Pensare che questa frase sia una istigazione sì. al femminicidio, una istigazione al femminicidio, non è ridicolo, è di più. Oltre il ridicolo, cioè pensare che Clemente Russo ispiri un marito ispirerà. Incazzato per un tradimento sicuramente non ispirerà, ad ammazzare la moglie è una cosa patetica. È una cosa patetica. Ora, io a me dispiace che Vladimir Luxuria, che è una persona intelligente, arrivi a dire certe cose. Cioè, a chi ti guarda basta poco per mettere in pratica Luxuria. Ma che cazzo stai a dire, a Vladimir? Dai, su. Allora, a proposito di prostituzione, c'è un tizio, un sindacalista, non si capisce perché un sindacalista, che dice che bisogna educare gli uomini al sentimento. Ti giuro, un tale De Palma, senti. No, no. Quello pensa la stessa cosa che pensi tu. Bisogna educare gli uomini al no, sentimento. Ma cosa c'è? Io dico che c'è un vuoto di. Aspetta. Valore. Educare gli uomini al sentimento, cioè il modo per eliminare la prostituzione, che è ineliminabile, certo, è educare gli uomini al sentimento. No, no, è intanto punire i mascalzoni che vanno a prostitute. Primo, okay. Intanto punire severamente. Certo, punire. Foto a casa, sì. Multe molto salate. Senti questo. Sequestro dell'autoveicolo. Sì, sequestro dell'autoveicolo. No, vedrai che a quel punto il tuo pisellino lo metti in un vaso con dell'acqua ghiacciata e la volta dopo non ti viene più voglia di fare il miserabile e di sfruttare le prostitute. De Palma, Innanzitutto credo che sia un problema degli uomini la prostituzione, perché il tema è che c'è l'offerta perché c'è una fortissima domanda. E io credo che la prima cosa sia educare al sentimento e alla sessualità. Questo fa pure il sindacalista, capito? Questo qua fa pure il sindacalista. Cioè, non dovrebbe. Cioè, bisogna tornare all'ABC. Il problema è degli uomini. Ma che cazzo dici? La prostituzione c'è sempre stata. Ma quale problema degli uomini? Ma questo è un deficiente totale, un deficiente assoluto. Marco da Pescara, vai. Allora, ciao a tutti, sono Marco da Pescara. Volevo un po'. Non si sente, è Nando da Perugia, vai. Buonasera a tutti. Dimmi. Senti, io volevo un parere riguardo che sono tornate d'attualità certi movimenti riguardo alla vicenda Cucchi. Volevo un parere riguardo a quel servizio. Parere, qui non diamo pareri noi, non diamo nessun parere. Mi interessava soprattutto quello di Parenzo, con il quale condivido tante posizioni. Sì. Grazie. Io volevo grazie. Dire circa il comportamento grazie. Della grazie, polizia Nando. Quando ha arrestato ultimamente quella persona di colore, che hanno fatto vedere a chi l'ha visto che questa persona, dopo averla scaricata in 3, in 4 dalla macchina, posata a terra sull'asfalto, sì. Un poliziotto gli ha dato un calcio. Non so se l'ha seguita. Sì, però, amico mio, non è che possiamo giudicare una roba avvenuta. Nando, dai, su, ma che ne sappiamo? Se qualcuno ha commesso delle violenze è un imbecille. No, se qualcuno ha diretto, il capo che ha diretto della questura, interpellato perché era presente, a mo' di giustificazione, ha detto sì, è stato instaurato un procedimento disciplinare. Nando, non me ne può fregare di meno. Che cosa vuoi sapere? No, però cosa vuoi sapere? Una cosa, l'ascolto. Da Parenzo, volevo sapere, siccome è una persona che, con la quale. Che cosa vuoi sapere? Che cosa vuoi sapere? Questo qui ha detto che gli ha dato un calcio, probabilmente dalla rabbia perché è morto. E allora? Allora? Allora? Non si fa il segno della croce, allora? Non si ricompone, gli si dà allora? Un calcio. Allora? Volevo sapere il parere. Ma cosa vuoi che pensi? Quando uno commette una violenza, punto e basta. Cioè, che parere? Però, però ha ragione l'ascoltatore. Ma tu non puoi parlare con Parenzo, parla con me, non con c'è Parenzo. Una sensi... No, non vuol parlare con te, ha ragione, ha fatto bene fare questa protesta non no, violenta nei tuoi confronti. Sì, no, ma che... hai ragione. Anch'io sì, perché alle volte io che mi sono, rifiuto... scusa, non ho capito. No, ma anch'io mi rifiuto di parlare anche con alcuni ascoltatori. Anche lei, ma si rifiuta di parlare con te, ma fa benissimo. Vabbè, non conosco il caso, non me ne frega un cazzo. Marco dalla provincia di Massa, dai. Sì, dimmi Marco. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti all'autore. No, non c'è nessun complimento da fare, non ce ne frega niente, vado al sodo. Vai Marco, dimmi. No, lo faccio perché mettere insieme un provocatore intelligente come te. Non me ne può fregare di meno, Marco, Parenzo. Dai, forza. Ascolta, guarda, dai. Piacere allora, Parenzo, buonasera. Sì, buonasera Parenzo. Buonasera a lei. Volevo dire poi che per quanto riguarda il vitalizio di Toni Negri, non dovevano toglierlo solo a lui. Doveva togliere il vitalizio a Toni Negri, il vitalizio a Violante che ha reso il famoso Toni Negri, e a Violante dovevano togliergli anche i danni che ha creato sì. Con l'inchiesta fasulla del 7 non ce aprile. Ne frega niente di Violante, Aldo da Bari, vai. Via Marco, Aldo da Bari, vai. Via Marco. Salve, vai. Aldo, dimmi. Salve. Stasera voglio cacciare tutti. Una cosa. Tutti. Io per lavoro purtroppo sono, diciamo, tra virgolette, piuttosto vicino alle ragazze che si prostituiscono. Cioè che fai? Anche per strada. Che fai? E non te lo posso dire. Che fai, purtroppo, magnaccio? Che fai? Per un motivo professionale. Che fai, il magnaccia? Io mi posso dire una cosa. Ma fai il pappone, che fai? Quella che è la mia piccola esperienza. Aldo, mi rispondi o no? Fai il pappone o no? No, non ancora. Ma che fai allora? Dimmelo che fai, perché è un segreto. È un lavoro che purtroppo sta di passare molto tempo per strade vicino il poliziotto. Vabbè, comunque. Diverse estrazioni. Allora, vabbè, farà. Poliziotto sicuro. Vai Aldo. Io volevo far notare una cosa, che d'accordo che c'è una percentuale di ragazze che vengono sfruttate, ma è veramente, almeno per quella che è la mia esperienza, sì. Esigua, perché la maggior parte di loro vengono consapevolmente in Italia per prostituirsi, sono organizzatissime, si servono e servono ovviamente a loro volta le organizzazioni, sanno esattamente quali stagioni devono fare, quando devono fare, dove devono andare, eccetera, eccetera, e alla fine... Cioè lavorano in proprio, sostanzialmente lavorano in proprio. sostanzialmente lavorano in proprio, ma sanno esattamente, attenzione, questo che viene, come dire, propagandato molto spesso, cioè il cliché della ragazza che viene illusa, sfruttata, maltrattata. Vabbè, ce ne saranno anche, però tu dici è una minoranza. Per carità, esistono. Però è una minoranza. Ma la maggior parte sono, come dire, consapevoli di quello che vengono a fare. Va bene, Aldo, fermo lì. Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? Pianta, la Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Senza controllo sanitario. C'ho le palle piene! Allora, caro Parenzo, qualche maligno mi ha recuperato una vecchia canzone. Allora, sai che qui alla radio abbiamo una signora che conduce una trasmissione qui a Radio 24 sui cani, su vari animali, lo sai? Sei no, ossessionato, lo sai, no? Sei. Allora, la signora Rosita Celentano. Sei ossessionato. No, ma io non sono ossessionato, la gente mi segnala delle cose. E mi hanno ripescato una cosa molto preziosa, una canzone cantata dalla signora Celentano nel 1994. Era anche cantante, signora Celentano. Beh, certo, il titolo è Faccia artista. Di merda. La canzone è Faccia merda. Era dedicato a... No, a qualche uomo sicuramente. Credo che fosse qualche uomo che non si era comportato. No, io che cazzo non c'entro? Ti conoscevo ancora. Ma 94, ma che me ne importa. 94. Faccia di merda. Ottimo. Senti l'interpretazione favolosa, che poi da qui è partita una carriera incredibile, una carriera folgorante come cantante. Bellissima, però è bella perché è fatta sulle note della canzone. Ma no? Non è vero, quello è un montaggio nostro, credo. Molto bella. un testo meraviglioso. Beh, un testo un meraviglioso. Testo che arriva, arriva a chi deve arrivare. Dai, ottimo, cagare, bravissimo. Dai. Ottimo. A parte che la voce è meravigliosa, cioè. Ma quale voce meravigliosa, che poi non ha fatto più una mazza, cioè, ma che questa legata nella lista. C'ha una voce stupenda, meravigliosa, una voce calda, molto bella invece. Va, va. Bella, piace molto. Pier Giulio, provincia di Bergamo, sì, dai, su. Dai. Voce bellissima, molto bella. Faccia FDM 94. Vabbè, Rosita Celenta. Non lo sapevo, ragione. Bisogna che diventi un biografo di Ros- dimmi, dimmi Pier Giulio, dimmi. Ascolta, ecco, volevo dire solo una semplice cosa. Senti, allora, Giulio, visto, considerato, visto considerato che come Parenzo, si fa a vivere santo, senza Pier Giulio santo, il mercoledì, il mercoledì certo, 5 ottobre tu. Come no, si aspetta, fa a vivere senza il commento di Pier Giulio ascolta, da Bergamo? Come Parenzo, si fa? Come si fa? Come ho fatto fino ad oggi no, a vivere senza l'intervento di Pier Giulio da Bergamo? No, come ho fatto? Come no, ho fatto? Allora masturbarti tutta una vita. Sentiamo, sentiamo. Allora sentiamo. Dovresti masturbarti tutta la vita. È un uco. O se no dovevi nascere un uco. Ma perché dove nascere un uco? Scusa, spiega. Certo, semplicemente certo, perché lui viene a colpevolizzare tutti sì, gli altri. Sì. Stiamo parlando dell'Italia. Persone. Allora non si presume guarda che ci Pier Giulio, tu vai a Mignotte? Tu vai a Mignotte? No, assolutamente. Cioè, per me, ma Parenzo, ma prima figurati, di prima, dai, no, dovresti, dai. No, non è che devi puntare il dito, togli la pagliuzza prima di puntare il forza, dito. Pota, dai. Pota, dai, certo che pota, certo, dai. Dai. Ma certo, come ho fatto io tutti questi anni a no, non dialogare con Pier Giulio da Bergamo? Beh, ma come no, ho fatto? Ti voglio solo dire una cosa. Mamma mia, io mi mancava. Io sì, queste cose, io queste cose, sì, io riesco a sopportarle. E io non vado sì, a violentare, come dici tu, che tutti vanno a violentare, sì, vanno a fare del male alle donne. Ma che cosa ma stai dicendo? Detto sembra che non l'hai ma detto cosa tu. Ha ascoltato no, lei? No, ma io chi ha mai detto radio la parola violentare? Ma chi l'ha mai detto? No, tu. No, Cruciani è diverso da te. Ma Cruciani certo, è totalmente sicuramente, diverso, sicuramente, è molto più liberista e le cose le capisce. Anche libertario, ovviamente. Senza andare a infecciare. No, ma no, non ho capito, Pier Giulio, non ho capito. Non tu sei mai quante volte sei andato a puttana in vita tua? Ma certo che l'ho fatto, come tutti. E chi è, che, chi tutti, è quel menzognero? Se uno non è andato a puttana almeno una volta nella vita, secondo me non no, non sono mai andato. Ma hai fatto male, non conosci il mondo se non sei andato a puttana almeno una volta nella vita. Dai, su un attimo il punto, se no la gente si perde. Scusi un attimo. Alle 19:23. Aspetta, facciamo il punto. No, ma adesso lei finisce. Facciamo il punto 30 secondi. Guardi, non le rubo altro tempo. Alle 19:23 di mercoledì 5 ottobre interviene al telefono 800-24-0024 un signore tal Pier Giulio da Bergamo. Sì. Io allora ho subito detto: beh, ascoltiamo che cosa ha da dire, perché sicuramente, come ho fatto fino ad oggi a vivere dopo sei anni in Zanzara, senza l'intervento fondamentale di Pier Giulio da Bergamo, il quale aspetta. La cosa importante che ha da dire è che bisogna andare almeno una volta nella vita a prostitute. Questo è l'intervento di tal Pier Giulio da Bergamo. In Italia o no? Punto di domanda. No, lo sfruttamento sì. Lo sfruttamento è reato. Ascoltami lo sfruttamento un attimo. Allora, uno può mettersi in strada, giusto? Vabbè, maestro, che c'entra questo? Per giù. Per giù, cosa c'entra? Come cosa c'entra? Ma stiamo scherzando cosa? Scherzi. Ho capito, cosa c'entra questo? Allora, uno. Allora, quanti pesi allora ci sono? Quanti pesi ci sono? Non lo so, le misure non lo so, i pesi non lo so. Le giudichiamo? Vabbè, allora, Pier Giulio, non ho capito qual è il punto. Che cosa vuoi dire? Cerca di dirlo no, con parole tue, perché, non ti impicciare. No, perché lui è giusto che gli facciano le foto, è giusto che tu vanno tutti in galera. Ma quello è Parenzo, è che devi fare? Che... No, è certo, detto in Parenzo, ma Parenzo... Non l'ho detto in galera, ho detto foto, bene che gli voglio, sequestro del mezzo, sequestro del veicolo, ma quale multa, sequestro del veicolo, perché uno va a Mignotte. Sequestro del veicolo e foto a casa. Ma cosa stai dicendo? Fermo lì, Paolo da Milano, Paolo, dai, Paolo. Pronto? Dimmi Paolo, dimmi. Ciao, ascolto, una domanda per Parenzo. Sì, eccoci. Che bacchetterebbe tutti quelli che vanno a prostitute. Io volevo chiedere questo. Sì. Una sì, persona, un uomo, che non riesce a trovare una donna, è più alto e più armonioso con sé, se va a prostitute o si, si soddisfa da solo. Per Parenzo si deve soddisfare da solo. No, io ho detto sempre un'altra cosa, tanto che sono a favore dell'apertura delle case chiuse. Vorrei che questa cosa venisse legalizzata. Oggi, la prostituzione oggi. Da strada oggi è da considerarsi da miserabile. No, oggi Paolo, immagino che sia lui, no uno casuale, no, sei tu che evidentemente non trovi una donna, no? O sbaglio? Io? Eh. No, io sono sposato da 30 anni. E vabbè, che c'entra quella, amico mio? Non mi ha risposto. Volevo cioè, risposta. Se uno non trova una donna, è meglio che vada a prostituta oppure si soddisfa da solo con la masturbazione? Chi è messo meglio dei due? La tua risposta, chiaramente, è Paolo il soggetto. Ma comunque, facciamo finta che non sia lui. Chi è? Parenzo, cosa deve fare? Paolo, cosa deve fare? Cosa deve fare? Si deve masturbare o deve andare a prostitute? Ma non me ne frega niente, io mica do giudizio quello che deve fare. No, lui. Giudizio, lui... consigli, che cosa ma deve fare? Ma non è nessun consiglio a uno che è in una situazione come cioè, questa. Se uno deve scegliere tra una prostituta faccia di strada... Lui faccia quello, io non do consigli a nessuno, né do patenti a nessuno. Faccia quel che crede. Pronto? Se crede giusto sfruttare per strada una donna sottoposta al racket della prostituzione, se ne ritiene giusto lo faccia. Alberto da Messina, sì, abbiamo capito Paolo, Alberto da Messina. Pronto, Paolo, allora? C'è o no? C'è ancora Paolo o no? Pronto. Paolo, dimmi. Volevo dire una cosa, che la domanda era un'altra. Qual era la domanda? Io sto chiedendo, la persona, qual è la più armoniosa con sé? L'armoniosa con sé, se uno lo giudicherà, non è che lo può giudicare Parenzo, se uno è armonioso o no. No, cioè, che ne so, cioè... È quello il punto, no? Ma che me ne frega uno armonioso, ma che cazzo di espressione è, dai? Senza Dio! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Oh Cruciani, ma quando io torno la sera da lavorare, no, che sono stanco come un giuo, entro in bagno, chiudo la porta e poi mi metto a sedere sul cesso e lì dai, lì come godo. E te mi vorresti dire che io devo stare un'ora con quell'affare lì fra le gambe? Ma vaffanculo, vai te e lo spotti potti. Parenzo, non attacchi mai potenti. Parenzo, guarda qua, questa è la meta domenicale dei tuoi tanti amati romeni per fare il picnic. Siamo ai pratoni del Vivaro, in provincia di Roma. Guarda, ammira. Ammira e difendili, sti zozzoni. A volte al mattino mi alzo e mi sento una merda, uno schifo totale. Poi attacco il podcast, sento blaterare Parenzo e cazzo di colpo mi sento un grande, il migliore. Beh, siamo al top. Allora andiamo a Milano da Eros, dal signor Eros. Anzi, devo dirvi una cosa prima. C'è un po' di polemica su una frase pronunciata, scritta anzi, dal signor Rondolino. Dal signor Rondolino, il tuo amico Rondolino, sì, su Twitter. Su Twitter ho visto. Ha detto una frase molto violenta, insomma, una considerazione su Casaleggio. Adesso ve la leggo. Ho letto. No, leggo, leggi allora. Sul video, sì, ce l'avevo qua prima, me l'hanno segnalata. Ma allora, aspetta, questo video postumo di Casaleggio che è stato reso noto dal pubblicato. Oggi, sì. L'hai visto? No, ma figurati, guarda, c'ho tempo da perdere sul video di Casaleggio, non me ne è mai fregato un no, cazzo. Io l'ho visto, il video di Casaleggio è divertente, una cosa. Vabbè, comunque, cosa ha scritto il signor Rondolino? Lo si sospettava da tempo, ma dopo la pubblicazione del video postumo è una certezza. Casaleggio era un cretino. Cioè, ha dato del cretino a Casaleggio che è morto, ok? Sì, e poi ha aggiunto un idiota totale rispondendo ad un'altra persona su Twitter. Vabbè, capito, non è una mancanza di rispetto. Io non è sto un dicendo che è una politico. Mancanza di rispetto. Dico è un giudizio politico che lui ha dato su una persona allora, che ha avuto un ruolo politico. In lo paese, si sospettava da tempo, ma dopo la pubblicazione del video postumo, una certezza. Casaleggio era un cretino. Infatti, non ha nulla da dire. Cioè, chi si scandalizza per questa cosa? Rondolino considerava Casaleggio un cretino e un idiota prima della morte, e lo considera un cretino e un idiota anche dopo la morte. Sì, cioè, non è che ha detto è morto, pezzo di merda, schifoso, bastardo. No, ha detto che era un cretino prima, lo ha detto probabilmente quando è morto, e lo dice adesso che non è morto e ha pubblicato che è già morto e ha pubblicato un video postumo, cioè il figlio ha reso noto un video postumo, punto e basta. No, ma senti la reazione, naturalmente l'hanno minacciato di morte, qualsiasi cosa. Allora, un tizio che si chiama Mauro Anzaldi, mi dicono sia vero, date fuoco alle sedi dell'Unità con Rondolino dentro. Date fuoco? Sì, sì. la senti questa voce, vai a fare in culo. Aspetta, aspetta, se ti incontro ti sparo in fronte, bastardo. Un tale Mauro Ansaldi. Io denuncerei a mani basse. Mauro proprio. Ansaldi. Va bene, eravamo con Eros Milano. Eros, signor Eros. Vai. Signor Eros, vai. Buonasera a tutti. Buonasera Cruciani. Dimmi un attimo, vedi, io che mi chiamavo appunto per dirti la trasmissione carina, quello che vuoi, però cazzo, ma tu non puoi non lasciare tempo agli ascoltatori di dire quello che devono dire. Tutte le volte gli attacchi il telefono, cioè non Eros, è corretto. Questa è la trasmissione più aperta del mondo, forse del globo terrestre. Tu stai chiamando per dirmi come mi pensa te, come mi devo comportare con gli ascoltatori. Ma pensa quanto siamo aperti, pensa quanto siamo liberi. Infatti, però, io posso chiudere una telefonata in 15 secondi, come posso stare con una persona al telefono per minuti. Non ha tutta l'intelligenza e la velocità di Ma non mi interessa, non sono interessato. Ma chi ha ma chi l'ha detto che devo aspettare? Me lo dici tu? Me lo dici tu? Che un cazzo, e appunto, non ti preoccupare, se non si capisce un cazzo, chiudi la radio e passa a sentire qualche altra minchiata che fanno in giro. Non è un problema. Vabbè, detto questo, lasciami esprimere il mio scontento. Ma dipende, ma infatti lo stai esprimendo tranquillamente. Lo stai esprimendo senza problemi. Un altro scontento, abbiamo gli scontenti. Oggi è la giornata degli scontenti. Va bene. Senti, ti volevo dire che siccome guido un'auto a Milano, un tassista. Sei un tassista, grande, sì. E è diventato improponibile girare la città perché stanno facendo questi lavori della metropolitana. Però, stanno rovinando strade. Amico mio, però, con tutto l'affetto del mondo, a me, alla gente che sta a Trapani, alla gente che ci sente da Catanzaro, alla gente che ci sente da Napoli, alla gente che ci sente da Campobasso, del fatto che voi, per carità, io sono molto vicino ai tassisti milanesi come ai tassisti di tutta Italia. Che voi avete dei problemi, come sicuramente avete per i lavori, non gliene frega un cazzo alla gente fuori da Milano. Temo di sì. Per temo carità, però io ti abbraccio fortissimo e se tu mi dici. Ti stringo, tesoro. Lucia Pordenone, vai, Lucia. Pronto? Sì, Lucia, dimmi, cara, dimmi. Ma mi riconosci? Ma come non ti riconosco, amica mia, Lucia? Come no, veramente no, in questo momento no, dimmi, Lucia. Fammi. Sono quella del camper. Oh, amica, quale prostituta camper? Del camper. Che dici? Volevo dire solo due paroline a Parenzo. Come vanno gli affari? Parenzo, vuoi venire a sverginare? No, ma che ti fanno schifo. No, scusami, Lucia. Che vanno a puttane. Scusami, Lucia, sì, io non credo che vanno, che, li considero non credo, un po' dei miserabili. Non sì. credo che tu, però, nel camper hai bisogno di essere sverginata. Hai la tua età. Quanti anni hai, scusami, Lucia? 20. Ma che 20, un cazzo. Dai, dimmi, quanti anni hai, Lucia? 60. Ecco, a 60 anni tu dici sverginare. Sono ancora vergine. Ma dovrebbe essere Parenzo a essere sverginato in questo caso. Sarebbe Parenzo. Ma deve sverginare lui a me? Ma non ti vuole fare. Che gli fanno schifo le puttane, vuole far dare la multa ai clienti. Non ho mai, signora Lucia, non ho mai sostenuto codesta tesi che lei in questo consesso autorevole ci sta proponendo. Considero miserabili quelli che vanno dalle donne sfruttate, dal racket. Ma quale sfruttate? Lei, cara Lucia da Pordenone, è una simpatica nonna prostituta che per volontà ha deciso di fare questo nobile mestiere all'interno di un camper, avendo però ultimamente, mi pare di capire, penuria di clientela, giustamente telefona al suo amico Cruciani in diretta alla Zanzara. Ma va benissimo, ma nessuno ce l'ha con lei che può liberamente esercitare il suo mestiere con scarso successo. Ma perché con scarso successo? All'interno di quel camper. Scusami, Lucia, dice Parenzo che non hai clienti, ma come è possibile? Se no non chiamerebbe, no? Ma sarebbe occupata. Quanti ne te ne sei fatta oggi? Ma sono cosa vergine. Quanti te ne sei fatta oggi? Sono vergine. Ma sei una notizia clamorosa anche questa. La novità, Lucia, due punti. È una notizia incredibile. Lucia, due punti, sono vergine. È clamorosa. La puttana del camper, sono vergine. Senti, Lucia, la famosa prostituta del camper sessantenne. Ma tu andrai a votare per il referendum costituzionale il 4 dicembre? Ma questa è la gente normale che va a votare. Ma a me non mi interessa proprio, guarda. Ma tu non hai proprio manco la tessera elettorale. Cioè, ma non mi interessa proprio perché fanno quello che vogliono. Sì, vabbè, quello d'accordo, fanno quello che vuole. Anche se vince il no, fanno vedere che hanno vinto il sì. Ma questo non credo. Questo non credo. Neanche Zagrebelsky sosterrebbe, però. Scusami, Lucia, io voglio capire una cosa, ma tu oggi quanti clienti hai fatto? Vergine. No, come nessuno. Oggi nessuno. Beh, evidente. Quando dico vergine che non è entrato neanche un cane. Scusami, ragazzi miei che siete all'ascolto, camionisti che siete dalle parti del Friuli, dalle parti di Venezia, adesso accusatemi di istigazione alla prostituzione, di sfruttamento della prostituzione. Io voglio dire no, perché non prendi la persona. Aspetta, voglio sì. C'è la morte con noi altri. Cosa ma assolutamente fatto? No. Sì, ce l'hai a morte, di la verità, ce l'hai a morte. Ma tutt'altro, non c'è la morte, la signora è anche molto simpatica. Cruciani, ma sai quante prostitute che ti ascoltano? Lo so, amica mia. Se ci mancano pure quelle. Se mancano quelle finite, camorristi. Però scusami, Lucia, io voglio dire una cosa. Io voglio posso diventare il tuo pappone? Comandi? Posso diventare il tuo pappone? Posso diventare il tuo magnaccia? Ma guarda, facciamo la fame tutte e due. Mancava no, ma tuo magnaccia come secondo mestiere, terzo, quarto, quinto, sesto mestiere. Cioè sì, non come ma prima. Magnaccia è sempre il primo mestiere. Lo so, amica mia, però tu sei una specie di Grammy, no? Cioè, tu hai fratelli, parenti, cose di questo tipo, figli. Che cos'è? Figli. Figli? E i figli che sanno? Dammi il telefono di tuo figlio, magari facciamo due chiacchiere. Ma no, per l'amor di Dio. Non perché? Sarà felicissimo il figlio. No. Quanti anni ha tuo figlio? C'ha la sua età. Io, non sarà allora, felicissimo Lucia, io voglio della una professione cosa. Della madre. Ragazzi, camionisti che state in giro, non solo camionisti, professionisti, camionisti, notai, manager, pordenone, un camper. Ma quale manager vengono con noi? Ma sai che i manager chiedono cose assurde. Cioè che chiedono, per esempio? Senza guanto. Adesso non è che dicono senza guanto. Senza guanto, amica mia. Però dicono scoperto. Scoperto, dicono. Il massimo scoperto, quello della banca, forse. Non lo so. È quello il massimo scoperto. Non lo so io. Sono impiegati di banca quelli. Scoperto è quello, il conto. Il massimo scoperto no, conosco. I manager, queste persone autolocate, sì. Quando ti chiedono qualcosa, ti dicono scoperto. Sì. Scoperto vuol dire senza guanto. Sì, vai, perché pensano che allora tu sei. Allora io le mando subito a quel paese. Subito, tu senza guanto non fai niente. No, ma non lo tocco neanche. Non lo tocchi neanche. Senti, non ma lo tocco neanche. Ragazzi, io però vi invito, siccome la signora è simpatica, il camper non mi sembra sorvegliato dalle telecamere, eccetera. Andate. Quanto è la tua tariffa, Lucia? Quanto fai tu a trombata? 30, mamma mia, però ragazzi, come siamo scesi in basso, 30 euro. Ma almeno, c'è chi ti dà di più, Almeno 50, no, dai, Lucia, ragazzi, comunque. Ma guarda che ci sono tante ragazze che ci degradano, fanno i pompini senza guanto, che schifo. Vabbè, ma quello, scusa, quello però la maggior parte delle prostitute fanno il sesso orale senza nulla, No. Beh, amica mia, però se manco fai quello senza cose, chi ci viene da te, scusa? No, ma non mi interessa a me. Beh, ho capito, per questo stai senza clienti. Ma io guardo la mia salute. Ma è per questo che stai senza clienti, Lucia mia. Ma ricordati, Cruciani. Che ha ragione. Una persona che ti chiede senza guanto, come chiede a me? No, ma io sto dicendo il sesso orale, non ma neanche sesso orale, ma scherzi. Beh, non lo so, c'è tutta una teoria sulla pericolosità del sesso orale. No, ma neanche molto. Ho capito, amica mia, però siccome ci sono altre 100. Ma vado a fare la pipì, dopo devo ciucciare, ma scherzi. Sì, questa è una teoria. Magari lei conosce il professor Zagrebelsky? Lei conosce il professor Zagrebelsky per caso? Sì. Lei sa chi è Zagrebelsky? Sì. Chi è? È quello del sì e no, Quello del sì e no, però vedi. Però lui ha la posizione per il no. Esatto, diciamo. Mentre lui allora è per il no. Si dice di no e no. No, dunque no significa non bisogna quando tu qualcuno ti dice non voglio usare il guanto, tu dici no, capito? Così io segui. Quello dico sempre no io, Ragazzi, comunque, Lucia da Pordenone, fatemi felice. Uno che chiama stasera, che mi chiede, che è da quelle parti là e mi dice l'indirizzo, il campo, e poi noi ti richiamiamo e ti mettiamo in contatto. Sì. Così c'è una bella denuncia. Signora bella. Sì. Parenzo, smettila di parlare male di noi. E lascia in pace i nostri clienti. Oh, lascia in pace i clienti. Perché i nostri clienti già hanno... Esatto. Qualche difficoltà in casa, ti credo. E poi dopo voi è importante. Gli danno una multa che non vengono più neanche con noi. Dai, su. Allora vieni tu che ti faccio fare io una multa. Dai, no, ma io non ho nessuna intenzione. Lui non ha interesse a venire, d'accordo. Però scusami, neanche. Lascia campare questi clienti che vanno dalla signora Lucia. Parenzo, se mi vedi, ti lecchi anche i baffi. Beh, adesso non esageriamo. Avrò 60 anni, ma sono ancora fatta bene. Vabbè, vabbè, signora mia, vabbè, però, 60 anni. Non è un argomento che mi interessa, però, a me, Lucia, come ha fatto Lucia. Se fai poi con adesso, questa risata dire... delicata, no, insomma, ma vabbè, a me mi fanno ridere queste persone qua, perché se io vabbè. Ando resta ferma lì, resta vengono. Resta beh, certo, te credo. Resta ferma lì, ferma, allora... ferma lì. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Comunque, ragazzi, è incredibile. Basta toccare il tema della prostituzione e arriva addosso qualsiasi cosa, qualsiasi telefonata. Cosa è successo adesso? No, a parte che c'era un ascoltatore, certo, prima che bisogna richiamare assolutamente, che era nella mia lista. Nella mia lista. Aspetta, Lucia, stai ferma lì, eh. Ricordiamo, Lucia, prostituta sessantenne in un camper a Pordenone. Abbiamo verificato tutto, è tutto vero. Però abbiamo una telefonata di Maria Teresa della provincia, no, di Roma, che sostiene. Figura, mi ha scritto una persona, mi ha detto: ti sento molto impegnato con la signora Lucia. E beh, qual è il problema? Che ci ti vergogni? Sentiamo, non ho domani mattina. Beh, un po'. Ma vai a fare in culo. Allora, Maria ti Teresa, sento vai. Impegnato con la signora Maria Lucia, Teresa, vai, dimmi. Che c'è, pronto? Maria Teresa, dimmi. Mi sente, sì. Dimmi. Ma Lucia, ciao, senti, innanzitutto saluto Giuseppe e Parenzo. Scusa, Maria Teresa, chi ma sei tu? Ma non ti vergogni, chi sei? Scusa, A chi ti rivolgi? Perché mi devo vergognare? Ah, Lucia, io sono una tua compagna di collegio, primo. Ma che ne sai? Maria Teresa, ma... Mohamed Ali. Cosa? Non lo sto capendo. Cosa sei? Aspetta, tu? Aspetta, dice che è una tua compagna di collegio. Io sono una tua compagna di collegio. Ma chi se ne frega? Eravamo aspetta. Piccole. Te lo ricordi tu questa? In Somalia. In Somalia, perché sei stata in Somalia tu, Lucia? Io sono certo, somala. Ah, è vero che è somala, sì, è somala. Allora, no, tu puoi anche fare la vita che ti pare. Entrambe siamo cresciute con le suore. Scusa, chi sei tu? Questo è il motivo no, vero per cui è diventata prostituta. Forse. Sono passati gli anni, perché io ho 61 anni, un anno più di te, quindi. Ma non è questo. Ma come no? Io guarda che mi ricordo bene di te. Tu avevi i capelli, ma molto all'afro. Gerer, Amal, Gerer, sì, Gerer. Un po', ma quindi non ti dire che tu assomigli a un'attrice americana, no. Scusami, Maria Teresa. Proprio, scusa, guarda. Allora aspetta, rimettiamo perché le cose. Il dialogo tra una prostituta di 60 anni che io vive in un camper. Io non vedo un uomo e ne sono fiera da 36 anni e ne vado fiera. Aspetta, questa è un'altra cosa interessante. Allora, Parenzo, che dicevi, perché c'è. Cioè, no, voglio dire questo. La 7 ha mandato giorni fa un dibattito in prima serata che ha fatto l'8% tra il presidente del Consiglio per il sì e Zagrebelsky per il no. D'accordo? D'accordo. Poi altre televisioni. D'accordo. Adesso noi stiamo proponendo, non ho capito che cosa, un dibattito. Sì, chiamiamolo sì, così, sì, per esatto, carità. Su prostituzione sì, prostituzione però, no. La signora Lucia che alloca la sua persona all'interno di un camper da Pordenone e non fattura niente, perché evidentemente oggi non fattura è niente. Un cesso a pedali, diciamo le cose. No, Lucia, sì, Lucia, diciamo le cose come stanno alle 19:51. Chiama questa è Maria sì, Teresa. Aspetta. Ma poi chiama una signora altra che dice di essere Maria stata Teresa. In classe. Aspetta, ma che ci frega di sta roba? Che ce ne frega? No? Allora, che Lucia aggiunge? Da Pordenone per il sì alla prostituzione, essendo peraltro una prostituta. Ecco. E Maria Teresa, la provincia di Roma, che sostiene di essere cresciuta sì, insieme a una scuola, in una scuola sì, in Somalia. No, in collegio, sì, per carità, in collegio. Ascoltami, Maria Teresa. Sì, Maria Teresa, aspetta, cruciali, Lucia, poi... voglio fare ordine, perché se no la gente non capisce questo niente, fondamentale dibattito per il sì e per il no. Lucia da Pordenone, sì alla prostituzione, essendo una prostituta, 60 anni, somala, vive dentro un camper. Maria Teresa chiama, no alla prostituzione, sì, in collegio sono cresciute insieme, ecco, e diciamo del fronte Zagrebelsky. Allora, no, ma io direi Maria Teresa, sì, assolutamente. E quando hai conosciuto Lucia? Ne vado fiera. No, vabbè, di che cosa vai fiera? Che non vedo un uomo da 36 anni. Vabbè, ma quello è un altro discorso che non trovi da 36 anni. Ma come cazzo fai a non scopare da 36 anni che ne hai 60? Non mi interessa. Ma perché? Ma perché ti fa schifo? Allora è meglio Lucia. E allora io sto dalla parte di Lucia, dalla parte del sì. Scusatemi, sono dalla parte del sì. Fai male. Ma scusa, amica mia, adesso tu la innanzitutto ci deve essere qua un ordine. Lucia, tu la riconosci come tua compagna di classe del collegio? Ma non mi ricordo, ma tu conosci Elvira. Ma chi cazzo è? Dire una terza adesso, il fronte degli astensionisti. Chi è Elvira? Ragazzi. Chi è Elvira? È mia cugina. Ma non, come faccio a conoscere tua cugina Elvira? Spiegami. No, dico a Maria Teresa. Ah, Maria Teresa, la conosce la Elvira? Conosco, sì, La conosce, vabbè, è facile dire sì, ma la conosco. Come faccio? La conosco, io sono partita che avevo 10 anni, quindi me le ricordo bene tutte, guarda. Però scusami, Maria Teresa, Lucia, fai una domanda in modo che scopriamo veramente se Maria Teresa ti conosce o no. Ho conosciuto anche la sua mamma. mamma quando era piccola. Come si chiamava sua madre? Ah, come si chiamava? Che non lo so mica io, eh. In via. Come? In via. In via, via. In via. Ok. Vabbè, comunque è cresciuta. Habib pure. Scusa Maria Teresa, tu sei cresciuta nelle suore, cioè poi non sei diventata. Poi non sei diventata suora. Ma tante, che eravamo in tante, da Maria Assunta, Camilla. Ma non ho capito tante, perché anche. Perché si dovrebbe anche vergognare? Cruciani, dimmi Lucia, Cruciani, dimmi. Puoi dare, poi lascerei in privato il mio numero di telefono anche. Che voglio parlare con questa signora qua. No, ma ditevi tutto qua, anche. Siete un meraviglioso dibattito. No, ma io voglio il suo numero di telefono. Sì, vabbè, Maria Teresa, perché non può fare la prostituta, Lucia? Spiegami. Sì, grazie tante. Maria Teresa, perché non può fare la prostituta? Caso, guardi, ma il camper dove ce l'hai? A Roma? No, a Pordenone. Pordenone. Ah, scusa. Aspetta, Maria Teresa, perché questa signora Lucia non può fare la prostituta? Me lo spieghi? No, la può fare, ma non la vado a dire ai 420, dai. Ma no, ai 420, scusa, ma questa qua deve farsi anche pubblicità. Scusami, Maria Teresa. Guarda, che a me non me lo mica circonciso, io la clitoride ce l'ho bella tutta, ma non sento il bisogno, non me ne frega niente. Ma, io quando ho voglia mi faccio una bella scopata da sola, sto bene così, guarda. No, vabbè, Maria Teresa, però adesso tu con queste cose che hai detto mi fai pensare. Masturbano? Allora, ma scusa, Maria Teresa, tu hai 36 dialogo, anni, 36 anni che non vai con un uomo? No, io da quando ne avevo 28, 29 anni, non me ne frega niente, non mi piace, mi fanno schifo uomini e donne, chiunque sia, non me ne frega niente. Ma perché? Io sto bene così, vivo in un bel appartamento, io sola, senza rottura di balle e niente. Vabbè, quando hai conosciuto sta Lucia? Quando eri ragazzina? Quando eravamo piccole, 8, 9, 10 anni. Ma che sei somala pure tu? Ma io me le ricordo tutte, quindi non sei somala che... pure tu? Io sono somala pura però, Pura. Lucia? Lucia, io sono somala pura. Lucia? Ah, no, io sono mulatta. Sei mulatta. Mulatta lei, sì. Comunque, ragazzi, meno male chi scegliete? Quella che dice che bisogna vergognarsi, Maria Teresa, per il no. Ma non vergognarsi, che non sta bene con la donna. Va bene, ecco, tu sei per il no e Lucia è per il sì. Ragazzi, scegliete voi, fermi. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La pubblicità. La zanzara. Allora, da un po' di tempo che era in collegamento Corrado dalla provincia di Reggio Emilia. Vai Corrado, vai. Sì, grande allora, confronto stasera. Allora, grande, sono per prostituzione sì. Sì, però aspetta ragazzi, dobbiamo essere chiari. È possibile che le mignotte dal camper si sentivano benissimo, le puttane di sessantenni dal camper si sentivano splendidamente, nonché una signora somala che chiamava da Roma e Corrado dalla provincia di Reggio Emilia non si sente una mazza? Allora togli tutte le connessioni del cazzo che hai lì intorno, Corrado, ecco, e parla con noi tranquillamente, dai. Okay. Ecco, riattacca, fa così. Eccetera. Avanti, allora, Corrado, dimmi. Allora, no, non ti sentiamo, ti sentiamo male, ti sentiamo come in una stanza, come in un imbuto. Dai, Corrado, togli quello che hai. Parla col telefonino attaccato alla bocca, dai. Allora, prostituzione, sì, nel senso che segmento escort. Persona di 45 anni, piacente, con disponibilità di tante donne. Frequento coscientemente prostituzione di alto livello escort. Ma questo sei tu? Sei tu? Sì, l'unico problema, sai quali sono? I soldi. Quindi gli ipocriti che prima chiamavano dicevano. Sì, però andiamo con ordine. Scusa, tu hai anni? 45. 45 anni, fai che mestiere fai? Lo vuoi dire? Sì, un lavoro impiegato. Ma perché si sente male? Mi spiegate perché? Perché va a prostituta e non compra un telefono che funziona. Allora, no, è vero, sono iPhone 6S, molto bello. E allora cerca di parlare bene, cerca di non avere l'auricolare, cerca di non avere il viva voce. Okay. Dai. Ok. Punto, quindi il segmento dell'escort è un certo sì, livello. Vabbè, adesso non vogliamo un'analisi sociologica sull'escort. Vogliamo capire prima, hai 45 anni, fai l'impiegato, guadagni bene? Sì. Guadagni bene. E dunque per te non è un problema di denaro? No, non è un problema di denaro, è un problema di denaro per gli altri. Vabbè, questo lo sappiamo che è un problema per gli altri, per alcuni sì, per altri no, non è la grande scoperta. Le persone che hanno chiamato prima affermavano il fatto che a prostitute ci vanno solamente le persone che non scopano, è una balla colossale. Ma no, ma quella è una stronzata, chi l'ha mai detto? Però, questo lo sosteneva uno dicendo, ma quello di, prima, quello di prima diceva un'altra cosa. Quello di prima diceva, e come la mettiamo con quelli che non riescono ad andare a donne, non riescono a rimorchiare, non sono anche quelli. Ma quello lo sappiamo, non c'è bisogno adesso che tu ci chiami dall'alto della tua esperienza di frequentatore di prostitute e ci dici beh, non ci sono solo quelli. Un contributo al sì. Un contributo a che cosa? Al sì. Contributo al sì. Ciao Corrado, ciao. Ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano il peggio di Radio Padania anche stasera, Senza dubbi né ripensamenti. Ci sono gli aspiranti profughi che diventano gay. Questa cosa so che piace moltissimo a Cruciani e Parenzo di Radio 24. Si eccitano moltissimo all'idea del bel Marcantonio, alto 1,80 m, con occhiali da sole. No, io veramente, caro Varin, da questo punto di vista ti do quasi ragione. Cioè, è vero che ci sono dei furbastri che vogliono essere accolti in Italia e fanno finta di essere omosessuali e vogliono addirittura iscriversi ad Arcigay. Comunque andiamo avanti, Varini. Tu tiri fuori la tessera dell'Arcigay, dici ehi, io sono gay, fratello, fammi entrare, e se quello non ti fa entrare tu lo denunci. Siamo nella merda, signore. Il mondo è ormai loro, gay e africani. Ecco, qui invece si va nella puttanata più classica. Il mondo è loro, gay e africani, caro. Meno male. Ma sai che io spero una cosa, però. Ogni tanto, pur compiacendoti di queste porcherie. No, io spero una cosa: che Varin bianco è anche piuttosto grassoccio. Sembra quasi Platinette, no? Mai visto. Sembra uguale a Platinette. Cioè è uguale, identico a Platinette. Sì, è identico. Forse un po' più magro di Platinette. Ma neanche che faccia. Pesa qualche chilo in meno di Platinette. Ma Varin è il nome o il cognome? No, il cognome. E il nome come allora, si chiama? Ma che cazzo ne so? Non lo so, ma non mi interessa. Però Varin, personaggio interessante, per fisicamente interessante. È simile a Platinette. E io spero che ci sia un micromondo conquistato da gay. Davvero, come dice lui, non succederà mai. E neanche così lo impiccano. Cioè la dittatura nera. La dittatura nera fa il nodo scorsoio intorno a Varin. Sì, è vero, alla fine avete vinto voi. No, io fossi uno degli arcigay aspetterei fuori dalla trasmissione. Ma fuori no, dalla dai, sede. Dai. No, ma sono andato per aspettarlo. Senti ancora Varin. Per aspettarlo con la bandiera dell'arcigay e basta. Dai. Aspetta, ma compagno. Ma che c'entra la bandiera dell'arcigay in questo caso? Però non è che vai a dire sono gay, altrimenti mi rimandano nel mio paese, altrimenti non mi fanno entrare in discoteca, allora io sono gay e quindi quello è obbligato a farmi entrare in discoteca, altrimenti vado sui giornali, li faccio fare una figura di merda. Senza dubbi né ripensamenti. Poi se la prende con noi. Bello ancora. Questo pezzo, vai, senti. Guarda avanti. Gli amici Cruciani e Parenzo hanno smesso di dire che Radio Padania prende fondi dallo Stato, ci mettono un po', Cruciani e Parenzo sono un po' imbecilloidi da questo punto di vista, o meglio, sono intelligentissimi, ma gli piace raccontare menzogne. Non permettere al tiranno. Allora, caro Varin, siccome avete fatto degli imbrogli pazzeschi su questa cosa qua, con le frequenze e altre cose ancora, ovviamente noi non possiamo essere dentro i vostri conti. Per un sacco di tempo avete preso soldi dallo Stato, senza adesso dubbio. Forse non ne prendete più, infatti fate gli appelli, dateci i soldi, se no chiudiamo. Per cui non romperci i coglioni. Per un sacco di anni avete preso i soldi dallo Stato. Lo Stato che odiate, preferite la mafia allo Stato, lo ha detto il tuo amico. Dai. Libertà. Roberto da Udine, vai, Roberto. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Io ti ho chiamato soltanto, ma ormai mi sono scollegato, non ho seguito più il discorso. Ma non c'è bisogno di seguire il discorso. Di quello che dovevi dire, amico mio, dillo. Tranquillamente. Volevo solo dire che secondo me la prostituzione è qualcosa che può essere superato culturalmente. Sì, superiamo anche, che ne so, le acque, cioè l'acqua, perché non andiamo oltre l'acqua, cioè un mondo senza acqua. No, non lo so, un mondo senza senza le zanzare, cioè quello ma senza nessuno le zanzare. Infatti vuole abolire la prostituzione. Mai, senza le zanzare, Roberto pensa, Roberto si vuole abolire e ridurre lo sfruttamento. Vabbè, ma quello lo dicono tutti, che c'è? No, Roberto. Perché Parenzo parla di case chiuse. Secondo me quello di parlare di case chiuse è un ragionamento arcaico, perché io credo che Parenzo sia un po' arcaico lui come proprio mentalità. Ma guarda che anch'io sono per le case chiuse, per cui cioè, case chiuse, bordelli, quello che è, dai, non dico che tu non sia arcaico, però legalizzazione della prostituzione, cioè uno deve avere pagare le tasse. Va superata la e che cosa facciamo? Va superata? Come va superata? Scusami. Sono altri metodi, cioè il fatto di scambiare denaro per il corpo di un'altra persona ti deresponsabilizza, toglie un po' la, sì, ma questo lascialo, affida questi pensieri ai filosofi, ai sociologi, alla discussione. La mia prima volta è stata con una prostituta, per cui voglio dire, cioè, ma sei un rinnegato da questo punto di vista. Vabbè. No, semplicemente io dico che secondo me, per quanto va superata, vabbè, culturalmente, sì, culturalmente, cioè, soprattutto Parenzo dovrebbe, sai che ci facciamo ma Parenzo è d'accordo con te, va ma bene, no? Ma certo. ciao. Allora ragazzi, io farei un collegamento, Parenzo, a questo punto, per tornare sulla vicenda degli immigrati, sì, con un sindaco di Rovigo, un sindaco che pare essere un neo, non dico come Bitonci, però insomma uno molto tosto, un tale Bergamin, Massimo Bergamin, il quale dice che vuole rendere la vita impossibile a chi ospita le risorse boldriniane. Cioè lui chiama risorse boldriniane praticamente gli immigrati, che ha detto una volta la Boldrini essere delle risorse, e dunque vuole rendere la vita impossibile a questi qua, soprattutto a chi li ospita. No, cioè vuole rompere i coglioni ai proprietari delle case. Una caccia all'immigrato, caccia alla volpe. Vabbè, dai, tipo Ku Klux Klan, dici, cioè peggio. No, dico tipo Ku Klux Klan, no, perché lo fa. Vabbè, sentiamo suo sindaco, e quindi. Vediamo, speriamo che non ci abbia un cazzo da fare, vediamo. Pronto? Sì, Bergamin? Sì, buonasera. Come andiamo? Sono Cruciani. Andiamo sempre bene. Sempre bene, sempre bene. Allora, io per una volta credo di essere d'accordo con lei, Non è un problema mio questo. No, ma lo so che per lei non è un problema, però credo che... Parenzo, che dici? Posso essere d'accordo con lui, secondo te? Beh, ma che porcheria! Parenzo fa tendenza. Che porcheria. Peccato, perché nella sua città c'è anche una scuola che è intitolata al mio prononno. Cesare Parenzo è stato garibaldino, era il papà di mio nonno. A Rovigo c'è una scuola intitolata a un tuo parente lontano. Certamente, Cesare Parenzo, grande garibaldino. Non ci facciamo mancare nulla a Rovigo. Siete caduti così in basso? No, è tutto relativo, sta, dipende dai punti di vista. Cioè, dipende dai parenti, ma parlavo della scuola, non dai parenti di Parenzo, non lo so. Renderò la vita impossibile a chi ospita risorse boldriniane. Mi pare una frase di senso compiuto. Cosa significa esattamente? Significa che prima devono venire gli italiani, altrimenti non riusciamo, come dire, ad avere tutte quelle dinamiche che ci consentono di essere un paese normale. Vabbè, quello è lo slogan, qualcuno, prima gli italiani, no? No, non è uno slogan, è la realtà. No, ma che significa rendere la vita impossibile a chi ospita? Significa che non è possibile che nel 2016-17, tra poco, ci siano 15 persone che convivono in 50 metri quadrati, di cui due all'interno di un cucinino di 5 metri quadri. E quindi? In fila con le brandine, i materassi, con il mangiare per terra. Per cui lei dice, io romperò le scatole a quelli che affittano queste case. Non li voglio, punto. Se li porti a casa Parenzo, ma non neanche Parenzo. Il problema va gestito a monte, che in questo caso è il mare, prima che questi si imbarchino e che rischino anche la vita, come tanti che ci lasciano la pelle in mezzo al mare. Ma lei, per lei non sono profughi? Non sono profughi? Morenzi, sì. Amico di Parenzo, vabbè, sindaco, ma non sono profughi secondo lei? Che sono questi qua? No, ma guardi, se vuole, siccome poi qualcuno mi ha detto che non devo fare fotografie, basta che vada in rete e li guarda, sono ragazzi in salute, hanno due cellulari a testa, girano per la città come fossero... Ha capito, dei boss del quartiere. Ragazzi, non mi sembra, salute. Non è gente che scappa dalla guerra, quella, no. Capito? Cioè sono in piena forma. Scappano da Euro Disney, da Disneyland. No, le statistiche dicono che attraversano il mare rischiando di morire perché gli piace il pericolo a questi. No, si divertono, hanno l'adrenalina a mille quando attraversano il mare con le carrette. I numeri sono quelli. Quali sono i numeri? Gestito dal suo amico. Sono pochi profughi, i profughi veri sono profughi, sono pochi, dai. Viene riconosciuto lo stato. Ma quanti politico. Sono gli immigrati tutti in gli Veneto altri, in tutto? Tutti gli altri. Gli extracomunitari in Veneto, quanti sono ma in guardi, tutto la numericamente? Veneto è la prima regione in Italia per accoglienza. Complessivamente, ma quanti sono? 10% come percentuale. Il Veneto 10%, cioè quanti ma sono, siamo 10%. Poco? Ma Siamo sui 400.000. Ecco, 400-450.000 massimo. Anche quindi degli extracomunitari. Sì. No, ma non sono 450 comunque, non sono 450. Sì, mezzo milione massimo. A mezzo milione sono tutti gli stranieri in generale, non gli extracomunitari. Sì, appunto, quelli regolari, non regolari, appunto, tutti quelli regolari. Non le cose. Voi mi avete chiamato per parlare di una situazione che non... No, però che vuol dire risorse boldriniane, scusi, sindaco? Stiamo parlando di soggetti a cui... Ma non sono utili, non possono essere utili al paese questi qua, questi ragazzi di cui lei ha parlato prima, non possono essere utili in qualche modo. No, non possono essere utili. Prima dobbiamo far lavorare i nostri giovani, dobbiamo far lavorare le nostre famiglie, i nostri genitori. Ma una cosa non è in contraddizione all'altra. E quelli, scusi sindaco, quelli che lei dice... Nero sono a casa da lavorare, non vivono... con i compensi lauti del parento, frequenti il popolo invece di frequentare i salotti buoni, il popolo dipende ogni sentilo mese. Lì frequenti il popolo, senti come dice il popolo, perché lei sarebbe uno del popolo, lei io sì, una volta che questi sono arrivati che bisogna fare? Buttarli via subito? Queste emergenze umanitarie vanno affrontate. Scusi, perché non fai un bel muro? Perché non fa un bel muro a Rovigo? Un bel muro a Rovigo? Ma no, il muro ce l'avete nella testa voi. No, ma il muro di Rovigo sarebbe straordinario. Cioè, sì, ma beh, non c'è bisogno, siamo una terra tra due fiumi, basterebbe anche blindare i ponti, non è quello il problema. Blindare i ponti? Ah, come no, con un bel tank. Bellissimo, si blindare. Può fare dei tank da Putin, non volendo. Non cambiare argomento quando arriva. E cambiare argomento, blindare sindaco i ponti. Di Rovigo, sindaco di Rovigo come Putin. Una persona qua che poi lei a chi si ispira, sindaco, nella sua azione? Di governo a Putin, riflessi, a chi si ispira? Dati sulla sanità, sindaco, adesso, quell'altra cosa. Della sanità, sindaco di Rovigo, scusi, lei a chi si ispira della sua azione di governo? A Putin è un si ispira Parenzo, lui? Parenzo, no, Parenzo non governa. Simpaticone. Parenzo va bene, sindaco, arrivederci, grazie. Si ispiri ai problemi reali. Grazie, arrivederci, arrivederci. Siamo qui per questo. Siamo, mettiamo i ponti, chiudiamo siamo i ponti. Per questo. Siamo al top, siamo al top. La Zanzara. Parenzo, porta un po' di immigrati a casa tua, così tra una trasmissione e l'altra, quando torni a casa lo trovi anche il letto caldo. Parenzo, i gara sono andare via da Abano. Noi vogliamo gara sono andare via. Niente negri a Abano, sporca l'acqua. Ciao Parenzo, come al solito non ti capisco un cazzo. Parenzo, spiega questo a Cruciani, quella che ti ha stracagà, in dialetto veronese, spiegagli a tu. Ma dai Parenzo, basta fare il radical chic, basta cazzo, hai avuto tutto nella vita, hai avuto tutto nella vita, sei nato ricco e vieni a rompere i coglioni a noi cazzo che lavoriamo, ma dai... Ma dai Parenzo, basta, finiscila di fare radical chic col culo degli altri, tutti gli immigrati, ma portateli a casa tua, dopo non vuoi che ti venga detto no, non dovete dire che mi li devo portare a casa mia, ma quella che t'ha stracagà, se avessi tu sotto casa 10 immigrati che ti puzzano come le merde, che ti impestano la casa con il loro odore, ripeto, quella che ti ha stracagà, Parenzo. Ormai è tutto degradato. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Zanzara. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Allora ragazzi, questo è veramente un paese strano, è un paese in cui tu puoi dare una notizia sui giornali, puoi scrivere eccetera eccetera, puoi dire io voto sì, voto no al referendum e non succede niente. Se tu in un programma di intrattenimento come Le Iene intervisti Benigni, bravo, che dice che vota sì al referendum, devi praticamente non potresti mandare il pezzo in onda. Poi sei costretto a mandarlo su Facebook. Cioè siamo arrivati a questo, cioè lo si sapeva, esatto, naturalmente, ma mancano due fottutissimi mesi. C'è un programma che si chiama Le Iene, che intervista il signor Benigni, che è una notizia importante, comunque, no? Per chi è interessato a questa cosa. Bravo cosa che stai dicendo? Stai dicendo rafforzativo. Sei. Quando dici una cosa giusta, devo valorizzare le cose. No, ma voglio fare sentire la ridicolaggine. Ma diciamo anche che hanno linciato Benigni. Vergogna. Anche questo, che Benigni andava bene quando era Dario contro Po, che dice che è un lecchino, che è un servo. Berlusconi andava bene. Ora che ha detto una cosa nel suo, perché pensa così, improvvisamente diventa un violentatore della Costituzione. Non solo dice che Renzi gli serve per ottenere chissà che cosa dalla Rai, quelle milionarie. Semmai è il contrario. Comunque, ragazzi, Benigni ha deciso di votare sì al referendum. Non certo perché è un lecchino di Renzi, perché sarà convinto di questo, immagino. Gli stanno facendo un processo. Ma questa è una cosa importante da dire, ma non c'entra niente con quest'altra cosa qua. Cioè, il servizio di ieri sera delle Iene è stato bippato. È stato bippato come se fosse un film porno, praticamente, no? Esatto. Sentite la versione in bip e poi quella che si può vedere su Facebook. È indispensabile che vinca il Se vince, perché c'è chi dice se vince disastro, no, se vince immagini il giorno dopo che ha vinto il morale, vabbè, ma già, peggio della Brexit, come si dice, ti do tutti peggio della Brexit addirittura. Cioè, ma capito che genialità che hanno fatto? Cioè, hanno fatto i beep in modo da far capire la ridicolaggine dell'Italia. Senti invece la versione originale. È indispensabile che vinca il sì, scherziamo. È indispensabile. Se vince il no, perché c'è chi dice se vince il no è un disastro, no, ma se vince ma no rimane. Immagini il giorno dopo che ha vinto il no, ma il morale, vabbè, ma già, peggio della Brexit, come si dice, ti do tutti peggio della Brexit addirittura. Ancora col bip senza bip, non questo, un altro, senti. Possiamo stare sereni sia che vinca il sì sia che vinca il no. No, possiamo stare sereni se vince il ma sereni come ha detto Renzi a Letta, Enrico, stai sereno e poi no, sereni. No, bisogna pensare, come si dice, al bene degli italiani. Possiamo stare sereni sia che vinca il sì sia che vinca il no. No, possiamo stare sereni se vince il sì. Ma sereni come ha detto Renzi a Letta, Enrico, stai sereno e poi no, sereni. No, bisogna pensare, come si dice, al bene degli italiani. Mamma mia, ragazzi. Senti, Dino Giarrusso? Ciao ragazzi. Ecco, ciao vai, Dinone, ragazzi. Quanto ci hai messo a fare questa intervista a Benigni, una vita? Tantissimo, nel senso che sono stato dietro un anno. Cioè, un l'idea anno, era venuta un anno fa, prima che ci stesse referendum. Ma sta cosa dei bip te la sei inventata tu? È stata una mia idea perché ero disperato, perché l'avevo già fatta l'intervista, l'11 settembre, proprio il giorno del mio compleanno, l'avevo beccato finalmente e poi l'ho montata e al momento di andare in onda ci hanno detto quest'anno la par condicio è entrata in vigore 69 giorni prima. Sei un maledetto genio. Cioè, perché la storia del bip, perché uno poteva decidere di non mandare in onda bellissima la cosa. Idea, bravo, bravo. No, non doveva andare in onda, io ero disperato. Allora mi è venuta un'idea, ho chiamato Vinti l'autore e gli ho detto: ma se invece mettessimo i bip come nei film, come quando uno dice le parolacce, e poi abbiamo messo pure anche le pecette nere come nei porno, no? Quando non si può far vedere i capezzoli delle donne, quelle cose. Mamma mia, ragazzi, che paese. Allora abbiamo cazzo. Fatto questo, però, dicendo, perché quello è il punto, che su Facebook nello stesso momento, un minuto dopo, cioè come se poi la notizia non trapelasse lo stesso, capito? Capito? Vabbè, ma questa è la logica, è il fatto che in una trasmissione come le Iene, che non è una testata giornalistica, adesso vabbè, parliamo per iniziati magari, non si può, non, fino a, addirittura da 70 giorni prima nessuno può... La cosa strana è che normalmente è 45 giorni, invece il referendum è da quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, siccome Renzi l'ha pubblicato con largo anticipo, 69 Senti, ma giorni... hanno insultato anche te per questa cosa di Benigni? Certo, ma a me mi insultano. Allora, ragazzi, quando uno fa le cose forti, ti insultano sempre. No, anche ti però è curioso, detto, perché tu sei anche... culo di Benigni. Qualcuno mi ha detto, lecca culo di Benigni, maledetto. Qualcun altro mi ha detto, tu sei contro Benigni, non gli puoi neanche lustrare le scarpe, lui è un genio e tu no. Cioè, la gente in rete commenta così, che se ne frega. Cioè, no, ma lecca culo di Benigni te lo dicono soprattutto quelli dei 5 Stelle, naturalmente. quelli del no, non più che 5-6, quelli del no mi dicono le cagole di Benigni, quelli del sì mi dicono sei stato troppo cattivo. Beh, questa è la cosa ridicola. Ma Filippo, secondo te che sei un cattivo per, un come cattivo, dire, per sì, definizione, sì, anche con qualche tratto di buonismo ogni tanto, ma sì, Rondolino sì, che ha detto che è un cretino e un idiota Casaleggio, dopo aver visto quel video, beh, che cos'è? Non è bello perché Casaleggio non è più in vita, non si può più difendere, questo non vabbè, ma digli cretino e idiota, non è che c'è bisogno di una replica. Cioè, era un, magari no, si poteva dire, era da questo video desumo che era uno fuori di testa, ecco, forse era più carino di dire, beh, oddio, fuori di testa ero, non è che sia una cosa no, bella, no, nel senso, però è diverso, capito? Perché quello è un insulto, quello lì è un giudizio. Aspetta, fermo là Giarrudo. Maria Pordenone, vai, vai Maria, vai. Non c'è Maria, Maria da Pordenone non c'è, che se ne matti. Giosuè, provincia di Milano, vai Giosuè, dimmi. Pronto? Sì, dimmi caro, dimmi. Aspetta, prima c'è Franco, provincia di Pescara, vai. Mamma Franco, mia, quanta gente c'è, affollamento come vai, l'autobus pronto, all'ora di punta. Dimmi Franco, dimmi. Ciao, sono un camionista innanzitutto. Ottimo. Vorrei raccontarvi una cosa che mi è successo su fatto delle prostitute. Dimmi, dimmi. Io ero fermo lungo la bonifica del Tronto a San Benedetto, dovevo fare uno scarico lì. C'era stato un temporale, era un po' rinfrescato, mi vedo avvicinarmi questo un gran pezzo di figa. Sì, ma dove mi questo puzza qua esattamente? Dove? San Benedetto del Tronto. Ma una piazzola? Una piazzola? Sì, stavo davanti all'azienda dove scaricare. Ma una casa, no, in autostrada. No. Vabbè, in una in una strada vicina, questo gran pezzo di figa mi sì, bussa, ecco, siccome sì, c'era stato un temporale, sì, dice posso salire che sei un po' fresca e sali. Poi? Questa qua poi parlando, sai, è tedesca, sì, che stava qui per vacanze, aveva bisogno di soldi e si prostituiva. Sì, allora? Senza alcun, niente, senza alcuna racket che dice Parenzo. Okay. Vabbè, quindi per non giustificare, è che solo questo caso. Quindi che questo camionista simpatico che chiama per giustificare che il suo divertimento di quella di quel pomeriggio. Ecco, quella tu serata, vai spesso a Mignotte, Franco? Come? Vai spesso a Mignotte? No. Ma quella lì. Quella lì l'ho dovuta farmela perché ho dovuto un gran pezzo, una super figa. Sì, addirittura. Cioè, sì, tu, sì. Alla fine quanto gli hai dato? Non voleva niente. Come non voleva niente? Che cazzo dici? Non voleva niente. Ma dici che stava lì in vacanza era per tardi, aveva fatto giornata, eccetera, eccetera. Aveva non voleva fatto niente. Giornata. L'ho scopata tre volte, Sì, vabbè, amico mio, ma adesso noi scusa, ma che cosa ci interessa il dettaglio di quante volte? Fagliela adesso, chiama, speriamo che la moglie lo ascolti, così appena arriva sei a casa, sposato tu? Bastone nodoso. C'è problema. Sei c'è sposato, problema, Franco? C'è sei, sei sposato? Sì, è certo. Sì. Vabbè, certo, vero, è certo, perché c'è? È tutto normale. Comunque, in questo di questa mondo cosa, di questa cosa, forse io sono un po' troppo arrapato, non lo so. Beh, di questa cosa che mi fa meraviglia sì, è che gli uomini, anzi, non gli uomini, i maschi che sì, vanno con i maschi non riesco a capirli. Cioè, che senso? Vabbè, quelli gli piacciono i maschi, possono andare con i maschi o no? Sei pure omofobo. Non sono normali, che ti devo dire, sono anormali. Sono anormali. Fermo là che c'è Maria da Pordenone che vuole contribuire a questa discussione. Maria? Ecco, aggiungiamo opinioni. Vai Maria, dimmi. Cruciani, buonasera. Dimmi cara Maria, dimmi. Sono Maria da Pordenone. Dimmi cara. Forse hai capito, l'altro camper. No, l'altro camper qual è? Quella è Lucia, che c'è un altro. Due. Voi avete due clienti alla Radio 24 del camper. No, ma scusa che sei un'altra zoccola sei tu. Va piano con le parole, che io non sono Lucia, No, ma ho capito, ma non sei una offendere. Sei un'altra puttana? Ecco, bravo, prostituta. No, ma prostituta, anzi, adesso c'è una che è una che fa la puttana e vuole essere chiamata prostituta. Questo, capito? Il suo diritto. Scusa Maria, ma anche tu operi nel camper? Operatrice sociale. Sono. Operatrice sociale, va benissimo, ma tu non ho capito, ma anche tu operi nel camper? Cosa c'è? Una scuola per la prostituta della terza età, evidentemente. Noi sì, abbiamo, gli dice al signor Parenzo, visto che Veneto, Veneto, che lui lo sa che c'è una scuola. Ma io non so niente. Però aspetti, ragazzi, questo è da approfondire. Abbiamo un collegamento da fare alle 8:30, però tu Maria resta con noi, cioè dopo l'interruzione. Ci mancherebbe altro che ci facciamo perdere un'occasione storica. Resta con noi perché qui c'è uno questa scontro tra camper. Lo scontro prima il sì e no. Meno male che lo facciamo a borse chiuse, guarda. Fermo. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Io sono Robur K18. Anch'io sono K18. E io pure. Io anche. Per il riscaldamento di casa e l'acqua calda, punta in alto. K18 è il sistema Robur in pompa di calore a gas. Ha un'intelligenza che usa al meglio l'aria, l'energia rinnovabile più disponibile. Le K18 ora sono 10, 10 modelli per ogni esigenza, dove come vuoi, anche da interno. Accendi il risparmio. Accedi agli incentivi. Con K18 dimezzi le spese. Nuove K18, 10 e Robur. Robur, coscienza ecologica. Chi può aiutarci a conoscere il valore dei nostri crediti? Parlane con Credit Vision. Da 50 anni esperti nelle investigazioni per la valutazione di portafogli di crediti performing e non performing. Creditvision.it. Diamo valore al credito. Nerone, Giulio Cesare, Adriano. Le monete dei grandi imperatori romani hanno attraversato la storia per giungere fino a noi, destinate a durare per sempre. Autentiche, preziose. Beni rifugio importanti e di valore, non soggetti a tassazione. Per i tuoi investimenti scegli le monete dell'antica Roma. Una sicurezza per i tuoi risparmi, con la garanzia che solo Bolaffi può offrire. Scopri di più su monete.it. Garantisce Bolaffi. Monete.it. È in pieno centro o fuori dal centro? È nuova, da rimodernare. La senti giusta da subito o dopo averne viste 100? È piccola, ma ti farà sentire grande. Se trovi la casa giusta, oggi c'è un mutuo per non fartela scappare. BNL ti dà una risposta certa per l'acquisto della tua casa in solo 5 giorni. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario, finanziamento soggetto ad approvazione, fogli informativi su bnl.it. La Zanzara. Bugiarda! Senza Dio! Senza controllo sanitario. Allora ragazzi, fermi tutti, caro Parenzo, qui c'è sì. Una tua amica, una tua vecchia amica, aspetta, forse adesso te la presento, grande momento, c'è ancora con noi Gianrusso, mi sembra, certo, grande Iena, sempre con voi. Allora aspetta Dino, dunque Maurizia Paradiso in collegamento da un ospedale oncologico, aspetta, attenzione, fermi, Maurizia. Ma allora vi devo dire una poesia, ragazzi. Muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Ecco. Beh, questa è buona, questa è buona, questa non è male. Leopardiana, Maurizia, come quasi. Stai? Come sì. Stai? Allora sono stata ricoverata d'urgenza. Oh, il dottor Pioltelli, che è il primario dal reparto oncologia delle. Ma dove sei? Quale ospedale sei? A San Gerardo di Monza, clinica ematologica, dottor Pioltelli, il primario, dottoressa Verga, dottoressa Borin. Sì, va bene. L'ospedale medico. Tra l'altro ieri mi hanno portato in sull'operatorio un bono che io prima di fare l'operazione me lo volevo scopare. Ma scusa, troppo carino. Parenzo, come stai? C'è ancora le occhiaie come un panda, amore, perché sulla 7 non si vedono le occhiaie, ti truccano benissimo. Grazie tesoro, grazie Maurizio. Sei molto un carino. Panda, hai capito? Come stai, Parenzino, amore? Bene, mio, cara, ti abbraccio forte e mi dispiace che tu sia in ospedale, guarda, allora, veramente. Però scusami, sento che hai, guarda, la cosa bella è che hai comunque questo umore, no, hai questo. Beh, se voleva scopare questa... il medico, se voleva scopare. No, sapete una cosa, la signora che c'è con me in camera, che adesso è in bagno, continua a scorreggiare anche di notte. Ma come scorreggiare? Poveraccia, quella è il reparto oncologico. Continua a scorreggiare, io non ce la faccio più. È vero, maestro, guarda il maestro Red Pasta. Buonasera, ciao ragazzi. Chi è questo? Chi è? Allora, questo è il maestro della mia trasmissione televisiva, maestro, pianista, insegnante di canto, Red Pascal, e lui è venuto a trovarmi in ospedale qui. Red Pascal, che cazzo? Scusa, Dino, tu la conosci, Maurizia? Ma guarda, credo che le occhiaie di Parenzo e anche quelle di molti della nostra generazione iniziano quando Maurizia faceva la TV di notte. Le occhiaie sono nate lì. Comunque sono nate lì a pure di farvi seghe, cazzoni. Volevo dire questo, sì, in maniera più raffinata. Già Russo, come dire, no? Voi siete degli stimola, titilla la signora. Vedi? Siccome voi siete degli agitatori culturali. Scusa, però adesso rimettiamo le cose in ordine, Maurizia. Allora, tu praticamente sei in una sala, in una camera di ospedale al San Gerardo. a 7, dove non puoi entrare, dove non c'è cappella che possa entrare. Non c'è cappella che possa entrare, benissimo. Ma neanche Michelangelo può entrare, perché anche lui ha fatto le sue di cappelle. Sì, non c'è dubbio. Però scusa, lì nella stessa stanza con chi stai? Con una signora che scoreggia continuamente. Vabbè, mi sembra di capire. Sì, una scoreggiona di prima categoria. Di categoria. Proveraccia, malata pure lei, no? Malata oncologica. Nel Timpierino non è un cazzo confronto alla signora Vanna, capisci? Di Sondrio. No, ma certo. Allora, devi dire il nome. Scusa. Aspetta che mi avvicino al bagno, sentite. Sì, chi è? Signora Vanna, scusa, signora... aspetta, cosa no, chiamala di nome, non cognome. No, il cognome. No, si chiama Vanna. Sì, ma ho capito il nome. Ho capito, no. Ma magari non vuole far sapere culo, che... Sì, ci che disastro. Ma che sto signora Vanna, si mette un tappo nel culo. Signora. Che disastro, che disastro. Che momento. È tutta la notte che non chiudo occhio. Sono entrata in sala operatoria ieri con ma scusa, ma di... cosa hai esattamente? Spiegami, Maurizio, cosa allora, hai? Allora, stamattina mi hanno detto che... Cioè, allora, c'hai una ricaduta di questo cazzo di cancro o no? No, allora, leucemia è regredita totalmente, però ho tre lesioni nel fegato che nessuno riesce a capire cosa sono. Quindi, ieri sono andata in sala operatoria, il dottor Pioltelli mi ha detto porta il fegato perché te ne tagliamo un pezzo. Io sono andata in sala operatoria e ho detto, ragazzi, mi sono dimenticato il fegato a casa, mi sono il fegato a casa, sai cosa mi hanno fatto? Mi hanno tagliato l'uccello un'altra volta senza anestesia, adesso mi ritrovo 4 fighe e 8 buchi del culo. Cioè, ma no, aspetta, no, attenzione, scusa, allora, ma parliamo di costituzione mentre diciamo, no? Ecco tu, Maurizio, esatto, sì, Maurizio, tu siccome Benigni ha detto che voterà sì, tu hai le idee chiare sul referendum costituzionale oppure no? Allora c'è un coglione che continua a telefonarmi che mi dice che vuol farmi fare una canzone, sì, che si intitola Votiamo No per vivere meglio. Allora intanto, ma chi è questo qua? Interessante, un grillino, chi è? Non lo so, vuol farmi fare una canzone che si chiama Villa, lui che dice votiamo no per vivere meglio. Allora sia ben chiaro, sì, sia ben chiaro, certo, questo è fondamentale, attenzione all'ansia, No, sia ben chiaro che il coniglietto di Playboy, cioè non posso pensarlo nudo, sì, avrà una piccola misura, unità di misura in millimetri. Beh, adesso questo non lo possiamo sapere, no, dai, dici, adesso questo addirittura perché? Beh, insomma, ecco, aspetta, ma chi è, scusa, non ho capito, ma è possibile. È la signora. Non scorreggi per cortesia. Che disastro. Allora, scusa, ma intorno a te ci sono dei medici, degli altri malati che ci puoi. Fai il tuo solito show. Passa lì, vai lì tra le stanze. È un ospedale, non può. Vai lì tra le stanze all'ospedale. Fai casino, risveglia un po' l'attenzione. Aspettate. Cerca di non fare crepare qualcuno perché noi abbiamo già i nostri problemi. Aspettate, allora cosa che domanda faccio? Cerco di uscire dal reparto ematologia, se mi becca un infermiere sono cazzo perché mi dicono di rientrare in camera. Aspetta, ti credo, in ospedale. Sì, apri. Aspetta. Dove sei? Ecco. Dove sei? Descrivici la scena, dai, descrivici la scena. Ecco. Sto uscendo. Sì, l'ospedale, sì. Poverina. Ma tu non ti sei pentita di esserti tagliato l'uccello tanti anni fa? Un attimo. Scusa, non ti sei pentita di esserti tagliato l'uccello anni fa? Un attimo. Dove sei? Mannaggia me. Si è persa. Perché torna in camera, Maurizia. Torna in camera, Maurizio. Torna in camera. No, c'è la scoreggione in camera, non posso. Che disastro. È un genio. Torna in camera, Maurizia. Allora, aspetta, vi passo questa infermiera, si chiama Paola. Signora Paola? Signora Paola? Buonasera. Sì, buonasera. Perché deve tornare in camera, scusi? Perché non può stare fuori troppo tempo. Ma scusi, lei è... L'ospedale, ragazzi, non è un Disneyland, su. Ma perché non può stare fuori? Quella vuole stare fuori, ci sarà libera di uscire come vuole, o no? Rischia di prendere i batteri fuori, deve stare in camera sua. Ma ce l'ha la mascherina? No, perché sennò altrimenti non ci parlerebbe così. Rischia di prendere i batteri, questo è vero, non la vogliamo far morire. Ma la ripassi. Prendi la mascherina in camera. Va bene, ma sempre tutti che mi gridate, Cristo. Maurizio, devi tornare in camera. Va bene, torno in camera, non rompetemi i coglioni però. In camera c'è quella scorreggione lì, non si può stare, c'è una puzza di merda. Che momento. Pare imbarazzante in questo ospedale. No, scusa, passamela. Signora Paola. Mamma mia. Paola, sì? Pronto? Sì? Mi passi un attimo, la convinco io. Non preoccuparti, sì, Paola. Sì, grazie. Per sì, ho favore, visto grazie. Anche che tu sei extracomunitario, cioè hai permesso di soggiorno, tutto a posto, sì. Ma che sei, Salvini adesso? Torna in camera, Maurizio. No, no, magari questo qua è illegale. Ma che c'entra? Ma tolta la porta. Tu sei illegale. Ecco, va bene, sono tornata in camera. Oh, non si fa così, eh. Io avevo solo mascherina, signora, mi scusi, E sono anche italiana, adesso va bene tutto. Adesso arrivate voi stranieri a comandare anche negli ospedali. No, perché non mi ciucciate il cazzo? No, beh, adesso però, se questo non ce l'hai, Maurizio, non ce l'hai. Amore, quando avevo l'uccello in mezzo alle gambe me ne inculavo una volta. Sì, allora, vai, d'accordo, però vabbè, questo è un altro discorso. Dai, però scusa, Maurizia, vabbè, adesso non ti arrabbiare con la signora che fa il suo mestiere, la signora infermiera, scusami, Maurizio. Senti, lo so. Aspetta, ma quella fa il suo mestiere, dai. Dai, un po' trascesa. Aspetta. Chi è? Aspetta, vediamo. Chi è? Vediamo se c'è un infermiere. No, ma non, ma non fare casino al San Gennaro. Poi, si incazzano con noi. Si incazzano con noi, poi no, che ti fomentiamo. Sono qui nel corridoio, sono rovinata. Ma no, siamo rovinati pure noi. Rientra un attimo in camera, sennò ci accusano di stigarti contro l'ordine pubblico. Devo tornare. Sì. Chi è questo qua? Chi è? Un poliziotto? Chi è? Camera, torna in camera. Chi è? Ma che sta succedendo? Maurizio, torna in camera. Maurizio. Va bene, vado in camera, volevo dirvi una cosa. Senti. Mi manda Cruzani. No, no, no, per carità, non fare il mio nome mai in questo momento. Mi manda la zanzara. Ma no, peggio! No, ma mai, dice? Mai sei impazzito. Allora, Maurizio, però io voglio sapere da te una cosa, scusami. Innanzitutto, hai speranze di campare o no? Allora, io oggi al medico ho detto, ma io sono in pericolo di vita. Esatto, questo quindi è importante. Quindi ha detto, gli ho fatto vedere la cicatrice che ho sotto le tette. Gli ho detto, quando ho fatto queste tette, 4 anni fa, ho fatto un'anestesia totale di 3 ore. Beh, se questo che c'entra. Se operarmi il fegato, cosa dura? 2 ore e mezzo. E dove mi taglia? Gli devo fare un taglio, prendere il fegato, tirarlo fuori, levare le lesioni che c'è dentro, rimettere il fegato dentro tutto. Non è certo una passeggiata. Ma ti ha dato speranze o no? Non ho capito. Sì, ma mi ha dato... Allora... Intanto oggi hanno detto che non ho un tumore nel fegato, però non capiscono se è un'infezione. Se sono delle fungine, ma io ho preso il Noxefil per 3 mesi di fila e a un momento mi rispunta la luce. Ma voi sapete cosa mi ha fatto il Noxefil a me, che è un farmaco che costa 1.100 no, euro? No, però adesso non ce la fanno pure le multinazionali, non ci fare querelare da qualche multinazionale. Ma sai, no, ma sai cosa ha fatto questo Noxefil a me? Ma sì, ma cosa ha fatto? Ha dato un ordine di godere per 2 o 3 ore di fila. Sì, io mi vabbè, trovavo in una concessionaria piegata in due, mi hanno detto, signora, sta male. No, sto godendo. Però scusami, te lo giuro. Dino, ma io voglio capire una cosa. Tu come te la ricordi, Maurizio? Perché da mica è morta, sta là. Cioè, cosa ti ricordi? No, a parte che mi ricordo, vedo che è diventata un po' come la Yorsenar. Vedo che proprio ha questo modo di esprimersi. Non so se un po' non mi pare malata. Ecco, non mi pare malata. No, ma è un one man show fisso il suo, dai tempi di Colpo Grosso e poi Magic America e poi... Senti, ma quante persone famose ti sei scopata, Maurizio? Scusami, dimmelo. Vabbè, chiaramente. Hai inventato uno scopo perché sono preziosa come l'intelligenza. Primo, secondo, non mi concedo come la Santa Anche non la dà. Anch'io, io non la do, cioè, io godo a cagare. Per esempio, io quando faccio una gran cagata godo come una pazza. Ma adesso perché bisogna... Ma perché dici? Perché? Per forza, perché? Ringrazio di avermi... Allora, secondo me le 3 cose più belle della vita sono: primo, cagare. Sì, quello è importante. Sì. Secondo, mangiare, e io non mangio, e quindi cago poco perché non mangio. E poi? Terzo, io metto mandare a fanculo chi vuoi. Quarto, fare l'amore, ma oggi l'amore non si può più fare perché non ci sono più sentimenti né niente. Adesso poi c'è Renzi che vuole fare il ponte sullo stretto, arriveranno, così arrivano direttamente tutti quelli dei mezzi milioni che arrivano da Lampedusa e tutti ce li ritroviamo qui a casa col cazzo duro che ci vogliono trombare. Vabbè, adesso quello è un altro discorso. Maurizio, comunque mi sembra che sei in piena forma, dunque non siamo in piena forma, tra l'altro siamo rassicurati. La signora scorreggia ancora. Anna, apro il bagno, devo andare in bagno. Vabbè, io la lascerei via le sue cose. Lasciamola, diciamo. Ciao Maurizia. Ciao, ciao tesoro. Ciao. Ascolta, guardatemi mercoledì a Vizi Privati su RTB. Ma come? Non stai male? Ma non stai male? La mia, ma non stai male in ospedale, al reparto oncologico? Sei impazzita? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ascolti. Ah, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio. Torna in camera, Maurizia. No, c'è lo scorreggione in camera, non posso. Roberto, chi c'è qua? Roberto dalla provincia di Macerata. Vai, Roberto, dimmi. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Anche tu questa sera nella spirale politicamente corretto. Io? Che ho fatto? Siamo reduci da Maurizio Paradiso che ne ha detto di tutti, no, i colori. Ma prima te la prendi col sindaco, gli fai le battute perché lui vuole chiudere agli extracomunitari. No, eccetera. È diverso, il sindaco vuole fare un'altra cosa, vuole rompere i coglioni a chi ospita gli extracomunitari. Cioè, se la prendesse con lo Stato, ma non chi li ospita. Che cosa vuol dire chi li ospita? No, li ospitassero gratis, perché qua in provincia di Fermo ci sono dei progetti che danno 500 euro a famiglia al mese per ospitare. E vabbè, ma c'è gente che ne approfitta, sicuramente prende dei soldi, ma il problema è tutti ne approfittano, perché le cooperative ne approfittano. Chi cazzo paga? Ma paghiamo noi, sono d'accordo con te. È una vergogna tutto quello che accade, cioè tutto questo processo che si mette in moto le cooperative e chi ci guadagna sopra, non ci dovrebbe essere. Ma qualche anno queste persone qui a cui dobbiamo mantenere Scusami, Roberto, Roberto, però dunque cosa faresti tu? Cioè devi, quello che dice il sindaco è fare utilizzare tutti i mezzi possibili per rompere le scatole a questi qua che affittano le case, i capannoni, i luoghi, le stanze. Allora, innanzitutto li farei lavorare, dato che godono per esempio degli incentivi di poter venire qua per mangiare e poter dormire e bere in santa pace, andassero a lavorare, a pulire le strade, a pulire gli alberi, eccetera, si rendessero utili invece di stare in giro per le piazze. Poi a fare a sputare. A sputare in giro dalla mattina alla sera. Io, cioè, io pure ogni tanto sputo. C'è pieno di gente che sputa in Italia. Cioè, non è che... in base all'educazione, se vai in giro sputi per terra. Ogni tanto mi capita, ma ogni tanto mi capita di sputare. Poi? Sì, non è sicuramente un retaggio senegalese che ogni tanto è un po' di catarro. Magari sputi poi? Per terra senza fare. Ma perché i senegalesi sono specializzati nello sputare per terra? Non ho capito. No, i nigeriani, questi qui hanno un'educazione sicuramente differente dalla nostra, perché non è una cosa evidente questa. Ma cioè, non sei, educazione sì, sicuramente, ma non so adesso, magari sei più cafone te in alcuni momenti o no? No. Ma è difficile, io magari difficile. Ho loro sono cafoni per definizione. Una cosa nella vita di mantenere sicuramente una adesso non mi fate fare non mi fate fare Parenzo, però dai su. No, ci sentiamo domani ragazzi, ciao. Ma allora vi devo dire una poesia, ragazzi. Muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Torna in camera, Maurizia. No, c'è lo scoreggione in camera, non posso. Radio 24. La passione si sente.